2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, benvenuti, questa è la puntata del 30 luglio, puntata dedicata alla sicurezza informatica, oppure potremmo anche dire alla insicurezza informatica. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Questa è una delle puntate estive del nostro programma in versione ridotta, una mezz'ora al sabato pomeriggio, ma come sempre vi ricordo anche la nostra puntata è disponibile attraverso il file MP3 e attraverso il servizio podcast sul sito internet di Radio 24. Trovate tutte le informazioni nella sezione podcast su www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Nelle ultime settimane, potremmo dire anche negli ultimi giorni, avrete sicuramente sentito alla radio oppure letto su internet di parecchi problemi che ci sono stati a livello di sicurezza informatica, attacchi di hacker o di altri gruppi non ben identificati in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Allora partiamo proprio da qua. Saluto Stefano Zanero, che è un ricercatore al Politecnico di Milano. Da molto tempo, da molti anni, si occupa di sicurezza informatica, di security, ed è anche fondatore di Secure Network. Benvenuto, o meglio, bentornato a 2024. Grazie Enrico, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Dicevo che nelle ultime settimane abbiamo commentato, ascoltato, letto di parecchie notizie relative a problemi legati alla sicurezza informatica. Gruppi di hacker sconosciuti il più delle volte sono entrati in grandi centri elettronici di grandi aziende. Sta succedendo qualcosa di particolare? C'è più attivismo in rete o semplicemente stanno venendo a galla cose che magari voi esperti conoscevate da molto tempo? Ma sicuramente è un momento di attivismo un po' particolare. Ci sono state le rivolte nel Nord Africa che hanno avuto un fondamento sulla rete. Ci sono dei gruppi che si sono organizzati per fare delle proteste molto scenografiche, i vari Lulz, Sec, Antisec, Anonymous, che sono molto carini, perché per esempio Anonymous a me fa sorridere, mi fa pensare alla battuta "chi ti acceca? Nessuno". Chi è che ti attacca? Anonymous, hai capito? Cioè adesso sappiamo tutto di loro. Sono delle sigle utilizzate per fare delle rivendicazioni. Quindi da questo punto di vista è un periodo un pochino particolare. Probabilmente ci avviciniamo a una singolarità in cui c'è tantissimo che viaggia sulla rete, la gente ha molto più la percezione della rete come una cosa importante, quindi molto più di qualche anno fa. Se io penetro all'interno di un sistema e pubblico i dati personali, faccio vedere alla gente che la corporation è cattiva o che la corporation si occupa poco di loro o che raccoglie dei dati che non dovrebbe raccogliere, e questo crea un effetto molto sorprendente nel pubblico, e l'effetto è quello che vediamo in questi giorni. Quindi questo è un aspetto importante, cioè le manifestazioni dalle piazze, dove ancora esistono e sono in alcuni casi efficaci, si stanno trasferendo, e oggi lo vediamo in modo molto evidente, anche online. Questo è un primo aspetto. Assolutamente sì, però diciamo l'activismo o l'attivismo digitale c'è sempre stato. Tu ti ricorderai sicuramente anche 10 o 15 anni fa in Italia, quando c'erano i net strike contro il sito della Telecom per l'abolizione della tariffa urbana a tempo, sì, no? Sì, sì. Quindi si sono evoluti, sono cambiati i target, sono anche cambiati forse le motivazioni dietro, però diciamo che è un'evoluzione, non è una cosa che è nata negli ultimi 6 mesi. C'è chi dice che i ragazzotti che sono sempre stati definiti hacker sono un po' meno, e molti di questi sono diventati professionisti addirittura del crimine, cioè vengono pagati da organizzazioni per penetrare alcuni sistemi, rubare dati o far danni ancora più grossi. Ma sicuramente in parte è vero, diciamo la parte non etica del mondo dell'hacking, perché alla fine l'hacking è la tecnica in sé che poi può venire applicata nel bene e nel male. Anzi, diciamo che molti dicono l'hacker è buono, il malicious hacker è invece quello cattivo. Questa è la definizione tradizionale del termine. Per esempio io insegno hacking in università, cioè una parte fondamentale del mio corso insegnare fare hacking. L'azienda che ho contribuito a fondare fa ethical hacking tutti i giorni, è il suo principale ramo di attività. Però nel mondo, diciamo, quello che viene denominato black hat, cioè dei cappelli neri delle persone cattive che fanno hacking, ci si è evoluti verso una scena dove esiste quello che viene chiamato mercato underground delle prestazioni di questi aggressori. Quindi c'è gente che scrive malware e viene pagata per scrivere malware, che di per sé non scrivere è scrivere malware vuol dire creare dei programmi per creare dei virus o dei programmi o degli attacchi. E di per sé questa cosa non è nemmeno, se ci pensiamo, non è nemmeno tecnicamente illegale in molti paesi del mondo scrivere il programma. L'illegale è poi utilizzarlo. Allora, cioè, come dire, costruire la pistola non è illegale. Bravissimo, è un esempio assolutamente calzante. E ci sono numerosi esempi di questo, cioè non è una cosa che diciamo così tanto per dircela, ma è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, ci sono i dati per dimostrarlo. Per cui è diventato in alcuni casi un problema anche di concorrenza. Adesso rimaniamo solo nell'ambito aziendale, poi parliamo di quello che sta capitando e succedendo tra gli stati proprio sovrani del mondo. Stiamo parlando di tecniche, di organizzazioni che sono al servizio, naturalmente in modo illecito, illegale, però di aziende che fanno vero e proprio spionaggio industriale. Assolutamente sì, esiste questa forma di vendita, diciamo, di queste prestazioni professionali poco legali, ma questa è in fondo sempre esistita, cioè l'aspetto dello spionaggio industriale, della spia industriale c'è sempre stato. Prima era meno informatico, più fisico, adesso magari si è spostato. Quello che esiste è poi un altro mercato illegale, che è completamente illegale fin dalle fondamenta, che è quello delle frodi, quindi di tutto il circuito legato alla infezione di computer di utenti ignari che poi vengono utilizzati per frodare altri utenti, per inviare le famose email di spamming e di phishing, oppure addirittura per affittare queste reti di computer compromessi, che noi esperti chiamiamo botnet, a organizzazioni che per esempio le usano per attaccare siti di altre compagnie, eccetera eccetera. Quindi questo è il doppio scenario: da un lato la spia industriale, ma dall'altro anche questo underground che invece cerca di generare soldi direttamente, non passando per uno spionaggio o per la sottrazione di segreti. Stiamo parlando di un fenomeno sicuramente globale, ma stiamo parlando di grandi dimensioni, cioè sta crescendo molto questo tipo di, chiamiamola, criminalità, o diciamo sono pochi casi e magari quei pochi casi fanno notizia, quindi se ne parla e sembra che il fenomeno sia grande? No, nel campo delle frodi oserei dire che il fenomeno non è noto nelle sue complete dimensioni al grande pubblico. È un fenomeno esteso, ma non esteso numericamente per numero di perpetratori. In realtà addirittura ci sono delle gang che sono poche, si contano, non dico sulle punte delle dita, ma poco di più di così, che sono anche ben identificate, cioè si sa dove hanno le loro basi, da dove operano, quali sono i loro metodi di operazioni, e semplicemente non si riesce a sgominarle perché si rifugiano dietro al fatto che lavorano in diversi tipi di stati. Alcuni stati sono tolleranti alla loro presenza perché non vedono perché smantellare gente che in fondo fa dei danni a degli altri, o che in fondo aiuta l'economia locale, perché alla fine si fona via dei soldi da degli stati più ricchi e li inietta all'interno di un'economia mia più povera. Ruba ai ricchi per dare ai poveri. Suona un po' così, esatto. non voleva essere però. Che stati sono? Si possono citare alcuni di questi? Ma alcuni di questi, allora, per esempio nelle ex repubbliche di quella che era l'Unione Sovietica, ma perché? Cioè non è che sia un motivo di cattiveria, ci sono dei motivi molto, molto specifici. Zone dove c'è un'economia, un tessuto economico poverissimo. Ci sono sempre state delle eccellenti scuole di matematica e di informatica, quindi ci sono persone brave, preparate, intelligenti, perché c'è stato degli interi programmi per sviluppare l'intelligenza dei bambini fin da piccoli sotto la dittatura comunista. Sì, quindi persone competenti. Persone competenti e molto intelligenti, quindi capaci di cogliere un'opportunità, che non hanno opportunità nel tessuto attorno. Per cui si buttano verso un'opportunità che da un certo punto di vista può apparire attraente e che è molto adeguata adeguata alle loro caratteristiche, alle loro capacità. È il sottobosco ideale. È la stessa cosa che uno si potrebbe chiedere perché in certi territori dell'Italia c'è una forte penetrazione di organizzazioni criminali. Perché? Perché c'è meno offerta di lavoro, quindi le offerte di lavoro passano da lì, e anche se tu sai che questa cosa è illegale o poco etica, alla fine quello è l'unico sbocco. Senti, negli ultimi tempi un'altra delle notizie che abbiamo commentato anche a 2024 riguarda la vera e propria guerra digitale. In questo caso non so quanto facile o difficile sia riconoscere attacchi su vasta scala ad un'azienda, che siano fatti per manifestare un pensiero, quindi che siano proprio una manifestazione che dalla piazza si sposta alla rete internet, che siano un attacco di spionaggio industriale o che siano un attacco, come oggi sentiamo dire, di guerra digitale. Però sta succedendo. Succede nel senso che gli stati da un po' di anni a questa parte stanno iniziando a porsi il problema, e nell'ultimo anno si sono decisamente occupati di guerra informatica, quindi cercando di costruire addirittura delle infrastrutture di difesa. Negli Stati Uniti per esempio è stato creato quello che viene chiamato Cyber Command, quindi un comando con un generale a 4 stelle, quindi alla pari del generale che comanda l'aviazione piuttosto che l'esercito, per occuparsi degli aspetti di guerra e di difesa informatica, per cui sicuramente l'attenzione c'è. Dall'altra parte il problema, come dicevi tu e come accennavi adesso nella domanda, è nel fatto che se per esempio una nazione avversaria, una nazione che vuole effettuare un atto di guerra, va a colpire un'infrastruttura critica di un paese, questa infrastruttura critica è un'azienda, giusto? Quindi diventa difficile per certi tipi di aziende, per certe dimensioni di aziende, capire dove finisce l'attacco, per esempio, della spia industriale o l'attacco del competitor che vuole metterti fuori gioco, e dove comincia una vera e propria cyberguerra in cui è l'attacco di un paese, tra virgolette, nemico. Cioè, è chiaro che se questa cosa succede a ostilità già dichiarate, è evidente che è un atto che si inserisce nella guerra. Dichiarazione di guerra. Esatto. Cioè. Ma se quello lì è il primo atto, e questa cornice si inserisce anche la dichiarazione un pochino sorprendente, ma non troppo, di politica di difesa degli Stati Uniti, che hanno detto: noi ad un atto di cyberguerra, anche che sia il primo atto di un attacco, risponderemo vuoi con la cyberguerra, vuoi con la guerra tradizionale, perché lo considereremo come se fosse un'apertura di ostilità, come se ci sparassero su una corazzata, o come se ci arrivasse un carro armato, nel loro caso dal Messico, il che non è molto probabile, sì, però certo. Diciamo come se qualcuno ci violasse l'integrità territoriale. Stiamo parlando di sicurezza informatica e a questo punto anche di guerra digitale. Avete sentito che gli Stati Uniti hanno ufficialmente dichiarato che in caso di un attacco digitale risponderanno anche con azioni militari vere e proprie, considerando questo attacco digitale un'azione di guerra. Ma è sicuramente molto difficile sapere e capire se stiamo parlando e se siamo di fronte ad un attacco di cyberguerra o di cybercrimine tradizionale. Ne stiamo parlando con Stefano Zanero, che è ricercatore anche su questi temi al Politecnico di Milano e fondatore di Secure Network. Tra cyberwar e cybercrime, Stefano, il confine è molto difficile da delineare, immagino. Assolutamente, perché il confine è labile, il confine è nella finalità, ma tu la finalità non la puoi capire dall'atto, a volte sì, ma in generale non la puoi capire dall'atto, e nel chi l'ha commesso, che nel mondo digitale diventa difficile da dire, non l'indirizzo IP, ma chi è l'agente che l'ha commesso, perché se l'indirizzo IP è un indirizzo IP in Cina, può essere o il governo cinese, un hacker pagato dal governo cinese, qualcuno a cui il governo cinese ha detto semplicemente: guarda, tu attacca gli Stati Uniti, che finché attacchi loro io non ti faccio niente, cioè ti do libero sfogo, guadagna tutti i soldi che puoi guadagnare, attacca gli Stati Uniti. Questa è ciberguerra o no? Da un lato è uno Stato che sta attaccando un altro Stato, ma dall'altro è uno Stato che ha semplicemente detto: guarda, io mi giro dall'altra parte e tu puoi fare quello che vuoi. C'è questa asimmetria possibile, no? Per cui nel mondo digitale un cittadino, una persona può attaccare uno Stato, che nel mondo della guerra tradizionale non è possibile, esiste, chiaro? Sì. Senti, lo Stato del dibattito, noi la finiamo qua perché andremo troppo sul complicato, non saprei forse nemmeno trovare le domande adatte, ma lo stato del dibattito negli Stati Uniti vedo che raggiunge anche i media tradizionali, cioè si parla di queste cose, anche perché effettivamente se viene nominato un generale che si occupa di queste cose l'impatto è molto forte. Dicevo, lo stato del dibattito in Europa, senza voler toccare l'Italia, a che punto è? Beh, questo succede negli Stati Uniti anche perché il generale Alexander, che è la persona che è stata incaricata di questo, è un personaggio molto, molto mediatico e molto bravo a parlare. In Italia, tu stesso nella domanda implichi la risposta, sì. Non si è sentito il dibattito sui media tradizionali, il cittadino non ne sa, penso, praticamente niente. Ma esiste da qualche parte il dibattito o non se ne parla proprio? Esistono alcune iniziative che ne parlano, però di iniziative concrete, specifiche, che poi si possano annunciare ai cittadini, ma come iniziative reali ce ne sono molto poche, per non dire nessuna. Parlando del cittadino comune, di noi davanti al computer, davanti a un tablet o ad uno smartphone, ci sono sicuramente dei metodi e dei modi per difendersi da tutto ciò che sta accadendo. Molte cose sono delegate alle aziende che devono proteggersi, ma se noi guardiamo alla nostra situazione, che cosa possiamo dire e quali consigli possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Beh, allora, chi ci sta ascoltando sicuramente vorrà proteggere se stesso e vorrà anche non essere una pedina o un computer compromesso utilizzato per fare, per esempio, un attacco informatico contro altri. Per entrambe le cose l'importante è evitare che il proprio computer sia infetto da quelli che una volta chiamavamo virus, adesso più realisticamente si chiamano malware, quindi programmi informatici fatti per controllare da remoto il nostro computer. Questi malware non è che si propaghino da soli, in realtà si propagano tramite i soliti due o tre meccanismi. Un meccanismo è quello per cui noi li eseguiamo senza volerlo, ce li installiamo da soli. Cioè ci clicchiamo sopra, poi diciamo si installa e magari installiamo qualcosa che non sappiamo esattamente da dove venga. E qui bisogna essere realisti, molti di questi malware non sono riconosciuti subito o efficacemente dagli antivirus. Circa il 60-70% dei malware viene riconosciuto da un singolo antivirus, il restante 30% gli scappa e ogni malware che noi prendiamo, se lo facciamo passare, ci sono proprio degli studi che abbiamo fatto anche in collaborazione con un'azienda che si occupa di questo, che si chiama Inspasec, un'azienda spagnola che ha un portale che si chiama Virus Total, dove anche i nostri ascoltatori possono andare, se hanno un file sospetto lo possono sottomettere a Virus Total e Virus Total glielo controlla con 70 antivirus diversi e gli dice quali sono i risultati. E controllando e confrontando i risultati si vede che molto spesso un singolo antivirus non riconosce tutti i campioni e ogni campione viene riconosciuto da della metà degli antivirus che lo controllano. Quindi questo vuol dire che noi non ci possiamo fidare, l'antivirus l'ha controllato quindi è sicuro. Dobbiamo anche pensare a da dove viene, che tipo di file è e se veramente noi lo vogliamo installare sul nostro computer. E poi mantenere il nostro computer aggiornato, installare le patch, sappiamo tutti che è fastidioso, richiede il riavvii, ci porta via del tempo, ma quel tempo lì è molto meno del tempo che spenderemo per togliere il malware dal nostro computer una volta che ci si sarà installato sopra. E questi malware si installano usando vulnerabilità note, quindi cose che si risolvono con le patch e con gli aggiornamenti. Senti, l'arrivo e la diffusione degli smartphone, dei tablet e comunque la diffusione di internet sta peggiorando la situazione? Ma in realtà sì e no. Sì, nel senso che gli smartphone e i tablet sono comunque vulnerabili a degli attacchi, cioè non è che siano invulnerabili. E per cui quando si diffonderanno, e adesso si stanno diffondendo in modo significativo, inizieranno ad essere degli obiettivi interessanti. Dall'altro lato, certi tablet, per esempio mi viene in mente l'iPad, oppure i tablet comunque con un mercato chiuso di applicazioni, che da un lato ci danno fastidio perché si possono installare solo applicazioni che arrivano dal mercato chiuso del produttore, però dall'altro questo significa che quelle applicazioni sono soggette a un meccanismo di scrutinio prima di essere messe a disposizione. Quindi per l'utente comune, per l'utente meno smaliziato, È un modo per avere un primo filtro per evitare di installare sul proprio dispositivo delle cose malicious. Poi chiaramente appena questi dispositivi diventeranno altrettanto importanti nell'uso, altrettanto custodiranno informazioni altrettanto significative dei nostri computer, ci sarà qualcuno che si inventerà il modo per romperli. C'è sempre qualcuno che si inventa qualcosa per... senti, la diffusione dei servizi cosiddetti di cloud computing in qualche modo può risolvere parte di questi problemi, cioè delegando al cloud, quindi alla rete, molte delle cose. Sappiamo che oggi ci sono addirittura dei computer che quasi non hanno a bordo nessun software e funzionano grazie ad un collegamento ad internet. Pensiamo al Chromebook di Google, che è un concetto, un'idea. Ecco, il cloud risolve o mica tanto? Il cloud sposta il problema verso il fornitore, che da un lato è sicuramente più attrezzato concettualmente di noi per gestirlo, di noi generico utente. Dall'altro ha dall'altro chiaramente ha il solito problema dell'outsourcing, quindi devi sapere a chi mi stai mettendo in mano la tua sicurezza. Però dal punto di vista dell'utente questo risolve certi problemi. Dall'altro crea chiaramente dei grossi bersagli, perché crea dei data center, crea dei provider che possiedono una grande quantità di dati. Se tu hai un grosso bersaglio dipinto sulla schiena, puoi anche essere una grande azienda, magari anche con un'ottima reputazione, però inizia a diventare un bersaglio molto succulento e quindi prima o poi magari qualcuno che riesce a trovare l'inghippo per entrare esiste. Adesso non voglio fare esempi, che ormai è come sparare sulla Croce Rossa, però dalla Sony magari ci saremmo aspettati un livello di protezione dei dati personali un po' più alto. Sì, sicuramente quello è un caso da cui imparare, ma anche di cui preoccuparsi, perché così come è successo in quel caso potrebbe succedere anche per altri. Non è successo solo a loro, è un caso molto evidente perché è un caso diffuso in tutto il mondo con... Anzi, immagino che, tu hai una visione del mercato sicuramente più vicina, immagino che ci siano un sacco di aziende a cui capitano grandi problemi, ma nessuno lo sa, anzi, in questo settore è proprio così che funziona. Assolutamente, in realtà per esempio negli Stati Uniti, in alcuni stati, esistono delle legislazioni apposta che costringono il fornitore di servizi che abbia avuto una breach, quindi, o chi sospetti una breach, quindi che abbia il sospetto di essere stato bucato, attaccato, a rivelare questa cosa alle persone le cui informazioni potrebbero essere state compromesse. In Italia e in Europa questa cosa ancora non c'è, c'è una direttiva europea in fase di implementazione che potrebbe contenere oppure non contenere questo obbligo in qualche forma, e questo sarebbe sicuramente un passo avanti per i consumatori, un grande problema per le aziende che sarebbero costrette a dichiarare cose che finora hanno nascosto sotto lo zerbino. Bene, io ringrazio Stefano Zanero per essere stato con noi, a presto. Grazie a te. E così chiudiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che la versione MP3 la troverete tra poco sul nostro sito internet www.radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo anche la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra 2024, e radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, scrivendo appunto e cercando 2024. Grazie e buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024.